finirà questa avventura, so che sarà piuttosto dura. Questo grande arcobaleno non può sciogliere un veleno che io dovrò bere insieme a te. Eu sem você perco sentido, pra que procurar se está perdido? Nós caminharemos pela solidão. Una vita nuova non è facile, non possiamo cancellare esse nosso grande amor. Cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te, e sa che una speranza non c'è. Io non mi canso di querer, ma se piangi come faccio a crederti? Già sto disposta a te perderti, vei, non acho che amar seja sofrer. Cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te, e sa che una speranza non c'è. Io non mi canso di querer, io posso morire, non sei mai tu che faremo, come posso stare senza te? Lasciare te è innaturale, e sento che mi fa già male. Vivere così non è possibile. Io non posso certamente perderti, non dobbiamo cancellare questo nostro grande amore. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te, e sa che una speranza non c'è. Io non mi canso di querer, ma se piangi come faccio a crederti? Già sto disposta a te perder di vez, faccio che amar seja sofrer. Vita vera senza te.